tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat, benvenuti ad una nuova puntata del notiziario anticlericale. E ricordiamo il sito del circolo giordanobrunomi.wordpress.com. Calendario anticlericale 2022, info@sicilialibertaria.it. Ricordiamo anche che l'uomo non è stato affatto creato da alcun dio. Adamo ed Eva non sono mai esistiti, sono tutte superstizioni dei preti per abusare della credulità popolare. Abbasso il Papa, abbasso il Vaticano. Cominciamo da cronaca vera del 1 marzo 2022. Ora cerco il mio gemello e voglio giustizia. Un missionario nega ogni suo coinvolgimento in questo scandalo, ma ha fatto perdere le sue tracce, quindi è latitante. La vicenda è venuta alla luce da poco tempo, una storia che ha dell'incredibile. A 40 anni la signorina, cioè signora, già madre di famiglia, scopre di essere stata comprata tramite il missionario, da quelli che aveva sempre creduto essere i suoi genitori. In realtà questa donna, ora sposata, appunto mamma, eccetera, è nata in Paraguay e la sua famiglia la vendette al prete che ci guadagnò rivendendola in pratica a questa famiglia della provincia di Bergamo. Sottrazione illegale di minore, e il servizio è stato mandato sulle Iene, c'è un giro di soldi. Passiamo alla Germania, anzi all'Argentina. Ha avuto ampia risonanza sui giornali lo scandalo del vescovo amico di Papa Francesco, il giorno del quotidiano nazionale del 5 marzo. Abusi sessuali, condannato il vescovo amico di Papa Francesco, Oscar Zanchetta. Anche il Corriere della Sera ne parla del 5 marzo, abusi in Argentina, condannato vescovo amico di Francesco. Quindi dimmi che amici hai e ti dirò chi sei. L'unico giornale che dà invece uno spazio grosso è la Prealpina del Varesotto del 5 marzo. Scandalo abusi, 4 anni al vescovo. E nega di avere molestato i seminaristi, i quali però evidentemente sono stati credibili in tribunale. Mezza pagina. Sul Fatto Quotidiano del 6 marzo, i privilegi clericali. Pare che 1.700.000.000 sono stati stanziati a favore anche della RAI per il giubileo del 2025. Preti pedofili da rete all'abuso. Il prete stuprò e la diocesi lo ha coperto, ma il giudice Poggio archivia. Siamo ai plurimi scandali sessuali della diocesi di Savona. Passiamo alla Spagna. Cosa è successo in Spagna a Malaga? Chiesti 9 anni per un sacerdote accusato a Malaga, appunto, di aver abusato di ragazze che oltretutto registrava con una telecamera nascosta e poi rivendeva chiaramente i filmati erotici. 68 casi in Spagna di abusi su minori da parte dei preti. Torniamo a Rete l'Abuso, abusi clericali, dove sono stato e chiesa, video Italy Church 2, abusi nella chiesa, le vittime chiedono giustizia. Rete l'Abuso, abusi, il cardinale di Colonia in mezzo al guado. Il cardinale di Colonia, Rainer Maria Wölki, ha offerto al Papa le sue dimissioni per lo scandalo dei preti pedofili. Torniamo in Spagna, Catalogna, vicino a Barcellona, un prete di 74 anni arrestato a Castelldefels, Barcellona, per aver dato soldi ad adolescenti in cambio di rapporti sessuali tra loro. Il vescovado di Sant Feliu de Llobregat rimuove il religioso dalle sue funzioni. 11 febbraio 2022 da El País. Riforma settimanale dei protestanti del 18 febbraio. Abusi nella Chiesa Cattolica di Francia. secca replica della commissione indipendente alle accuse di aver enfatizzato il fenomeno. E qui c'è un bel articolo, se volete leggere, a pagina 3, sui preti pedofili. I leghisti filocrocifissi ladri, di Rubba intascò 38.000 euro da Lombardia Film Commission. Gli ex contabili della Lega rischiano un nuovo processo. Di uso il filone d'indagine. Proseguiamo da Sicilia Libertaria. Al di qua non lasciate che i pargoli vadano a loro, da Fradubbioso. E qui ci sono vari articoli a pagina 3 anticlericali. Comica invece la dichiarazione del portavoce Vaticano Matteo Bruni nel reiterare il senso di vergogna e il rimorso, eccetera, eccetera. Bambini strappati alle famiglie, rapiti e sottoposti a ogni genere di abuso in Canada, anche dai preti cattolici e dalle suore. 50.000 morti in maniera semiclandestina, senza le dovute denunce all'anagrafe, eccetera. A pagina 4 segnalo anche un articolo sullo storico problema dei crocifissi, una sentenza della Cassazione. E qui ci sono vari commenti pro e contro su questa sentenza. Questo prete vendeva bambini in Paraguay, le Iene del 16 febbraio. Ne avevamo detto prima, e chi ha scatenato la cosa è stato appunto questo servizio delle Iene. Sulla Stampa Tutto Libri, a pagina 11 del 5 marzo 2022, posseduto da mille demoni sguaiati, il Don Zauker di esorcismi se ne intende. Le operette immorali di Caluri e Pagani, cattivo, omofobo, con un'arma sempre in tasca, e la passione per le donne procaci, è un prete da scomunica. Sgomenta un gruppo di boy scout e implora una madonnina soprammovere di spremere qualche lacrima. Dice bestemmie davanti ad altri prelati stupiti, ma sempre benevolenti. Prende Viagra, maltratta i chierichetti e sostituisce le ostie con il salame, quindi blasfemo al massimo questo Don Zauker. Passiamo al mio piccolo dizionario di terminologia atea anticlericale. Marcio in Vaticano, siamo arrivati alla lettera M. Marcio in Vaticano c'è, nessuno lo nega, ma è occultato sotto la tenda come una piaga incancrenita. Meglio sottacere tutto, da I Millenari, Via col Vento in Vaticano, Caos Edizioni 2001. Massa di grossolane assurdità, sono quelle propinate dai clericali in mezzo ad alcune nozioni filosofiche sublimi, da De Tocqueville, un ateo liberale, Edizioni Dedalo. Mega Fandonia, lo è la profezia mancata da Gesù a proposito di un suo prossimo ritorno su un trono di gloria su cui giudicherà le 12 tribù di Israele, Edizioni Dedalo 2008. Mega Fandonia, lo è la profezia mancata da Gesù a proposito di un prossimo ritorno in gloria, abbiamo appena detto. Mentalità costantiniana è quella della Chiesa Cattolica Italiana, che si batte per una società in cui potere politico e religione siano tutt'uno, da Rodelli, un'opera già citata in questo testo. Mentalità cristiana occidentale è un ingombro e un handicap, soprattutto per i non credenti, in quanto condiziona pesantemente governi, parlamenti, eccetera. Mentalità da sacrestano, e si parla appunto di questo libro di un certo Alessandro Gnocchi, Giovannino Guareschi, Rizzoli, Milano 98. La mentalità da sacrestano è caratterizzata da particolare formalismo, pressapochismo, condito da ignoranza e bigottismo, a pagina 198 di questo libro. Passiamo al Deschner, Storia criminale del cristianesimo. Mente criminale fu quella di Sant'Agostino da Ippona, iniziatore dell'agostinismo politico, modello di condotta nei secoli per sanguinari inquisitori. Menzogniere, fiabe dogmatiche, da Gianni Grana, noto fondatore dell'UR Unione degli Atei. Pure invenzioni clericali senza certezze documentali, come ad esempio la folla che la Chiesa sarebbe stata fondata da Gesù Cristo. Facciamo tempo a dire un paio di date dal mio calendario anticlericale. Lunedì 8 marzo 2019. Sacerdote perde 25.000 euro nella truffa dei diamanti. orchestrata da funzionari di banca infedeli. 9 marzo 2018. Indagato per omicidio stradale un prete di Caluso, Torino. 10 marzo 1942. Il nunzio papale a Berma informa in Svizzera, informa il Vaticano sulle deportazioni di massa naziste nei campi di sterminio. Pio XII tace. 11 marzo 2019, arrestato a Belfast in Irlanda del Nord il frate pedofilo John Murray. Benissimo, arrivederci alla prossima puntata.